Salva Danaio di Deborah Rosciani. Abbiamo cominciato oggi a sorpresa con una bella marcia nuziale, non vi preoccupate, non scappo da qua, non ho nessuna intenzione di sposarmi a breve, quindi non era nessun annuncio clamoroso, dalla conduzione di Salva Danaio la Rosciani non si sposta, ma in realtà questa colonna sonora ci serve oggi ad introdurre l'argomento del quale ci occuperemo. Naturalmente buongiorno a tutti e benvenuti a Salva Danaio. In questo periodo dell'anno si concentrano per molte famiglie tanti impegni, si tratta soprattutto di cerimonie e feste con gli inviti di parenti, amici e conoscenti che vanno ad affollare l'agenda di matrimoni, cresime e comunioni. Abbiamo scelto appunto questo argomento oggi per Salva Danaio perché per queste occasioni di festa vanno messe in conto delle spese che a volte sono anche piuttosto salate. Se per chi partecipa si tratta solo, tra virgolette, di regali o vestiti da indossare, per la famiglia che organizza le cifre diventano invece molto più importanti. È per questo che alcuni arrivano anche a chiedere un prestito per poter organizzare la cerimonia dei propri sogni, mentre altri trovano soluzioni alternative per festeggiamenti, come si dice oggi, low cost. C'è anche chi arriva a far sponsorizzare il proprio matrimonio, chi trova modi più semplici di riunire la famiglia, ma c'è anche chi si è trovato a rendere conto all'Agenzia delle Entrate delle spese fatte per organizzare le proprie nozze. Allora noi oggi facciamo un punto su tutto questo e chiaramente oggi vogliamo chiedere al massimo la vostra collaborazione. Raccontateci intanto se avete recentemente sostenuto una spesa per organizzare una cerimonia o se siete stati dei partecipanti, come vi siete anche organizzati ed attrezzati per il regalo, quanto tutto questo ha pesato sul bilancio della vostra famiglia, come vi siete organizzati per non dissanguarvi finanziariamente. 800 24 00 24 il numero verde per le vostre domande, se vorrete anche chiedere dei suggerimenti per organizzare una cerimonia senza appunto spendere in maniera eccessiva. 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Scriveteci anche su salvadanaio@radio24.it, su Facebook, su Twitter. Andrea Polo, direttore della comunicazione di prestiti.it, intanto buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Si è sposato qualche anno fa? Qualche anno fa. Avevi speso tanto? Ma io mi ero divertito più che altro, ecco. Non l'avevo speso io, però mi sono sposato prima dell'euro, quindi questo ha dato un notevole vantaggio. Tra l'altro sono 13 anni fra pochi giorni, anche io di maggio. Ecco, quindi. Visto, abbiamo fatto anche questa piccola carramba questa mattina. No, l'aspetto dell'euro non è indifferente, diciamo che questo è un suggerimento che non si può dare. Questa mattina sposatevi con un'altra valuta, non credo che sia appunto un suggerimento praticabile. Sandra Mariani, fondatrice, ideatrice e curatrice del blog, del sito Nozze Furbe. Buongiorno Sandra e benvenuta a Salva Danaio. Buongiorno, buongiorno a voi. Un sito molto ricco di informazioni, suggerimenti, ma anche di esperienze di chi ha scelto di sposarsi in maniera, come dire, anche alternativa. Ho visto che addirittura qualcuno ha scelto di farlo in maniera ecosostenibile, non solo spendendo poco, ma facendo anche delle scelte di tipo ecologico, passatemi il termine. Poi andremo a curiosare. Poi Sandra ne fornisce anche tutte le indicazioni e suggerimenti per chi ha scelto, anche se non sono state moltissime le esperienze in questo senso nel nostro paese, di sposare proprio con lo sponsor, di organizzare delle nozze sponsorizzate. Poi vedremo come si fa. C'è poi tutto l'ambito delle cresime e delle comunioni, quindi altri grattacapi, altri problemi, oltre che naturalmente anche un bel momento per i figli. Dicevamo appunto, parlavamo appunto di quell'ambito che riguarda le comunioni e le cresime. Sentiamo un po' i genitori che cosa ne pensano. Con noi torna questa mattina, per un tema un po' originale, Davide Guarneri, presidente nazionale dell'AGE, l'Associazione Italiana Genitori Onlus. Presidente, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. La domanda... Scuso per un po' di disturbo, sono in treno. Ecco, no, tra l'altro, siccome stamattina mi diverto a raccontare anche le come dire, questioni private dei miei ospiti, lei quattro figli, in realtà ce l'ha raccontato anche in altre trasmissioni. Le è capitata qualche cresima e comunione quest'anno? Per uno dei suoi? Lo scorso anno gestione casalinga con cucina tipica fatta da noi. Ecco, anche questa è una bella idea. Allora, prima di tutto questo però stamattina speriamo anche di divertirci con la nostra trasmissione. Adesso divertiamoci un po' meno con i numeri della borsa. La faccio rapida perché siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Sono negative le borse europee, adesso Milano invece scavalca di nuovo la parità e si indirizza in territorio positivo, più 0,01%. Aspettiamo il vertice dei capi di governo europei a Bruxelles, aspettiamo i verbali dell'ultima riunione della Banca Centrale Americana. Stamattina di nuovo molto pimpante Tokyo, che ha dato la spinta, ha tentato almeno di farlo, alle altre borse internazionali. Qua la politica monetaria super accomodante continua, la Banca Centrale del Giappone l'ha confermata e il listino ha guadagnato di nuovo l'1,60% ai massimi da 5 anni e mezzo a questa parte. E invece un po' meno brillanti le altre borse europee: Parigi scende di mezzo punto, Francoforte meno 0,2, Milano più 0,03 grazie ad Enel Green Power che è in rialzo del 2%, Fiat Industrial più 1,48, A2A più 1,47, Monte dei Paschi più 1,31%. Abbiamo un calo molto forte stamattina per Terna, un caso di borsa meno 2,90. Per il gruppo c'è stato il collocamento da parte del primo azionista privato della società, Romano Minozzi, del 5% del capitale, anzi del 5,3%, e naturalmente il titolo si è allineato ai prezzi di questa operazione. Lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di oggi: matrimoni e cerimonie, quanto ci costano. Andrea Polo, direttore della comunicazione di prestiti.it. Queste cerimonie costano soprattutto molto per quelle famiglie che ci tengono ad organizzare tutto in pompa magna. Non è detto che poi la scelta debba essere obbligatoriamente fatta in questo modo, però abbiamo visto che anche a causa della crisi economica, chi non vuole rinunciare a nulla ad organizzare appunto queste cerimonie al meglio possibile, si indebitano anche. Avete fatto anche questa scoperta sul vostro portale. Sì, abbiamo analizzato le domande degli ultimi 6 mesi e quello che è emerso è che effettivamente ormai i prestiti per matrimoni e cerimonie, perché un'unica finalità, rappresentano quasi il 2,5% del totale. Vuol dire che nel corso degli ultimi 2 anni il loro peso percentuale sul complesso di finanziamenti chiesti in Italia è aumentato del 41%, che è veramente tanto. È anche vero che invece è diminuito notevolmente l'importo richiesto, per cui se 2 anni fa mediamente si chiedevano 16.000 euro di prestito, oggi se ne chiedono 9.000. Questo in realtà racconta una sorta di cambiamento proprio dell'atteggiamento, per cui prima il prestito era fatto probabilmente sì per avere le carrozze coi cavalli bianchi o comunque sia qualcosa di... Mi vuoi dire che hai visto anche qualche matrimonio di questo tipo? Ho visto anche quello, ho visto la Cadillac con le sicure a forma di sposo, ho visto di tutto. Oggi invece in realtà probabilmente è fatto proprio per l'esatto opposto, cioè per poter rateizzare quella che è una spesa che altrimenti in un unico momento inciderebbe veramente tanto sull'economia familiare, e invece in questa maniera, siccome tra l'altro il piano di restituzione è molto lungo, si arriva anche a 6 anni, in realtà consente di non dover rinunciare a troppe cose, perché alla fine parliamo soprattutto del matrimonio, non tanto della comunione o della cresima. Chiaramente è un bel momento, un momento da festeggiare, un momento che rimane. Si razionalizza la spesa, questo è oggi il vero motivo che spinge a finanziare il matrimonio. Va detto comunque, ed è innegabile, che se su alcune cose si può risparmiare, soprattutto in determinate regioni dove magari le famiglie sono più ampie, insomma non si possono non invitare i fratelli dei genitori e tutti i vari annessi e connessi, per cui anche soltanto il pranzo del matrimonio può essere una spesa veramente importante. Certo. Ecco, a proposito di, come dire, differenziazione territoriale, dove fanno richiesta di prestiti in misura maggiore, perché magari significa che forse lì la crisi morde un po' di più e quindi è necessario chiedere un sostegno di questo tipo? E ovviamente da un punto di vista di incidenza percentuale il meridione, quella dove si chiede di più. Una richiesta su sei arriva dalla Campania, che è una regione che da sola veicola il 17% quasi delle richieste di finanziamento. Poi ci sono le regioni comunque grosse, quindi la Lombardia ad esempio da sola fa quasi il 15%, e seguire c'è la Sicilia ugualmente è molto importante in questo genere di finanziamento, quasi l'11%. Se invece si vanno a vedere le cifre, il Lazio è senza dubbio quella dove si richiedono le cifre maggiori, perché si parla di quasi 13.000 euro, scusate, a seguire di nuovo le regioni meridionali, per cui la Calabria, la Puglia, tutte ben al di sopra dei 10.000 euro. Lasciamo in sospeso un altro aspetto del quale voglio occuparmi dopo con te, Andrea, perché mi è venuto in mente anche ragionando sul tema che questa mattina campeggia su tutti i giornali: quarantenni che devono spesso e volentieri chiedere il sostegno finanziario alla famiglia perché non ce la fanno a sbarcare il lunario, non tanto a sposarsi quanto proprio a mandare avanti la baracca, la propria vita. Quindi magari ci racconterai dopo se questi prestiti vengono chiesti di più alle coppie che vogliono sposarsi, dalle coppie che vogliono sposarsi, oppure dai genitori della coppia. 800 24 0024, il numero verde per le vostre domande. Vedo che si sono messi già in coda tantissimi ascoltatori stamattina, mi fa molto piacere. Vi leggo anche intanto qualche messaggio. Francesco ci dice: siete mal informati perché in Campania si fanno le buste, probabilmente si intende il regalo in denaro nel corso della cerimonia. Guardi Francesco, che non si fa solo in Campania, si fa ovunque. Sposati nel 2005, un altro ascoltatore, non so se sia uomo o donna, eravamo in 10, compreso il prete, no lista nozze, i doni più cari, quelli appunto spontanei. Questo è proprio il mio matrimonio super ideale. Rivolgersi, sì Andrea? Posso dire una cosa invece? Io sono sempre stato, appunto come dicevo prima, mi sono sposato nel 2000, sono sempre stato un grande sostenitore della lista nozze invece, perché... No, purché... qui invece ragionavo sul numero delle persone invitate. Purché modulate in maniera diversa, mi sono sposato, ero molto giovane, l'età media del mio matrimonio era veramente molto bassa, quindi anche la capacità di spesa degli invitati era molto bassa. In realtà è meglio dare un'indicazione a chi arriva. Sì, certo, per arriva. Fare 18 servizi di porcellana, anche Limoges. O dei cucchiaini d'argento utilissimi che poi puoi rivendere al mercato, insomma queste cose qua. Però in realtà questo è un modo in cui si aiuta anche gli invitati a risparmiare. Quello senz'altro, non ho più, ti ripeto, io più che altro ragionavo sul numero delle persone, perché poi è sicuramente anche molto bello avere una festa con tutti gli amici che poi ci tengono forse a volte più loro che i diretti interessati, però davvero tante volte assistiamo a qualcosa di molto esagerato. Su tutto questo ci arriviamo tra qualche istante, per invece sentire Sandra Mariani del sito nozzefurbe.com. Volevo appunto chiederle se è d'accordo con questo ascoltatore che dice: rivolgersi ad un organizzatore di cerimonie ed eventi consente di tenere sotto controllo i costi, è così? Sì, assolutamente, perché per diverse ragioni. Innanzitutto l'organizzatore di matrimoni ha una conoscenza pratica e quotidiana del mercato, quindi conosce i vari fornitori e quindi può indirizzare gli sposi verso i fornitori che possono aiutarli a risparmiare. Inoltre riesce spesso a gestire meglio degli sposi proprio il budget a disposizione, perché da lì si deve partire, dal budget. Gli sposi devono sapere a che cifra vanno incontro e qual è la cifra che hanno a disposizione, perché spesso invece si parte con bisogna fare, però non si sa a che cifra si va ad arrivare se non alla fine. E invece chi ha proprio difficoltà deve mettere proprio nero su bianco qual è il budget a disposizione, presentarsi da un organizzatore di matrimoni dicendo con onestà: noi abbiamo questo, cosa riusciamo a fare? Sicuramente può aiutare. Certo. Può sollevare anche da molto stress. Ecco, anche perché qualche volta effettivamente l'organizzazione di queste cerimonie manda un po' in tilt anche il ménage dei fidanzati, che cominciano già a litigare ancora prima del tempo. Comunque no, il tema dell'organizzazione, dirlo anche all'organizzatore senza pudore. Io più di questo, anche perché credo che oggi sia, come dire, una questione che riguarda molte persone, per cui c'è ben poco da vergognarsi se il budget a disposizione è limitato, e comunque magari ecco si evita anche di spendere in ciò che non è necessario, e magari qualche volta noi non riusciamo ad individuare ciò che non è necessario, perché essendo coinvolti emotivamente nella cerimonia chiaramente si perdono di vista un po' di cose. C'è chi ha fatto la lista nozze in agenzia viaggio, anche questa è una prassi molto consolidata, appunto di recente: cerimonia civile, solo qualche parente, costo 600 euro e siamo ancora felici, ce lo racconta Michele. Ci sono tante testimonianze questa mattina, ma soprattutto molti che come dire, guardano con grande perplessità, Andrea Polo, al tema proprio dell'indebitamento per sposarsi. Molti dicono: ma non conviene rinviare almeno di 1 o 2 anni, attendere tempi migliori piuttosto che cominciare già con un debito sulle spalle la vita a due? Intanto solitamente il debito rimane ai genitori. Quindi torniamo alla domanda che ti ho fatto prima. Sopra, sono, esatto, i genitori che si indebitano. Il più delle volte sono i genitori, che anche perché hanno un profilo tale da poter garantire la restituzione del prestito, cosa che non sempre gli sposi hanno. Aspettare 2 o 3 anni in realtà poi probabilmente non cambierebbe sostanzialmente il tutto, anzi in realtà magari rischia di far lievitare ancora di più i prestiti necessari. Ricordiamo quello che dicevamo prima, però non si tratta di persone che vogliono il matrimonio da mille una notte e quindi fanno dei prestiti folli per questo genere di attività. Si tratta, ripeto ancora una volta, più che altro proprio della razionalizzazione della spesa, quindi del fare in modo di non doversi trovare a spendere in un mese o poco più, perché comunque tanto costano i matrimoni in determinate zone d'Italia, certo. 15, 20, 25 mila euro, e invece poterlo spendere in rate mensili ben più basse, che alla fine l'Italia è un paese che vive a rate in tante cose, dalla lavatrice anche al matrimonio. Allora, ci fermiamo adesso, abbiamo la nostra prima pausa. Intanto Serena su Twitter ci scrive: piuttosto che indebitarmi per un matrimonio ho deciso di non sposarmi, almeno lo rinvii, Serena. E poi sentiremo tra poco Marco da Verona, che invece deve farci una domanda non tanto sulle nozze, le prime nozze, ma su un anniversario molto importante, perché giustamente Marco vuole festeggiare anche questo momento. Abbiamo guardato i miei impegni, i nostri, e fissato la data per il gran giorno all'incirca per fine ottobre, metà novembre? All'incirca, sì. Oh, meraviglioso. Chiamerò il circolo per vedere come sono messi. E il circolo? Il circolo della caccia per il matrimonio. Oh, no, ci sposiamo nella chiesa di Tula. Noi non siamo molto religiosi, ma la sua famiglia sì. Abbiamo preso un enorme salone. Come si chiama questo posto? Il palazzo di Afrodite. Beh, non è un vero e proprio palazzo. Il Partenone come fondale è facoltativo. E questo era un brano tratto dal mio grosso grasso matrimonio greco, ma potrebbe essere anche sicuramente una simulazione dell'annuncio di una coppia di giovani davanti ai genitori: ci sposiamo, e subito scattano naturalmente le idee da parte di mamma e papà sul posto dove per poter organizzare appunto al meglio la cerimonia, con grande imbarazzo, perché sicuramente in genere i due diretti interessati la pensano in maniera completamente diversa rispetto ai genitori. 800 24 00 24, il numero verde per parlare con noi oggi di matrimoni e cerimonie, quanto ci costano. In maggio generalmente appunto sono molto fitti gli appuntamenti in questo senso, soprattutto è il mese questo di cresime e comunioni. Davide Guarneri, presidente dell'Associazione Italiana Genitori Onlus, nonché papà di 4 ragazzi, quest'anno non c'è stata nessuna cerimonia, ma ci raccontava prima lo scorso anno è stato un mese particolarmente impegnativo per la famiglia in questo senso, con delle scelte precise, ma in genere appunto anche in questo caso, come un po' per il matrimonio, ci sono famiglie che ci tengono molto anche ad organizzare al meglio questa cerimonia, che dovrebbe essere un po' più ridimensionata, no? A parte il valore religioso, però voglio dire, quello invece che riguarda, come dire, l'aspetto più ludico, dovrebbe essere più tenuto sotto controllo, ma non tutti ce la fanno. Ma direi da genitore dovrei invitare al buon senso, a ragionare un po' sulle cose. Ogni cerimonia, ogni festa ha sempre una valenza molto importante, che è quella del trovarsi insieme con le persone, con gli amici, ricostituire rapporti, legami sociali, eccetera. E quindi c'è un valore. C'è ovviamente il valore religioso per quanto riguarda comunioni e cresime o per il matrimonio religioso. Niente, Guarneri ce l'aveva già detto che era in treno, noi questa mattina lo volevamo ugualmente con noi per una testimonianza su questo argomento, però magari ci ritorneremo più avanti se riusciremo a ripescarlo. Comunque il senso lo abbiamo capito, è chiaro che è una cerimonia, almeno quella della comunione, che ha un valore religioso che dovrebbe essere un po' più distaccato da tutto il tema del festeggiamento, però voglio dire, le famiglie che vogliono farlo hanno tutto il diritto anche di organizzarsi con pranzi, cene e raduno di tutti i parenti. Ritorniamo al matrimonio però, con noi questa mattina ci sono Andrea Polo di prestiti.it e Sandra Mariani del blog Nozze Furbe. Sentiamo qualche ascoltatore e poi commentiamo appunto questi casi insieme ai nostri ospiti. Marco da Verona, lo avevo annunciato prima, buongiorno. Sì, buongiorno. Comunque io nell'88 spesi 2.200.000 lire in un ristorante di medio lusso. Ascolti, io volevo fare il 25esimo e volevo capire a che spesa si andava incontro con circa 50 persone, tutto lì. Ah, Marco da Verona vuole festeggiare le nozze d'argento. Sandra Mariani, qua scatta subito qualche indicazione per il nostro ascoltatore. Sì, allora, le nozze d'argento, le nozze, gli anniversari sono un po' come i matrimoni, e con 50 persone dipende sempre dalla location che si sceglie. Chiaramente se si va in una villa di lusso dove i costi sono sempre superiori alle 100 euro a persona, si può arrivare a spendere anche più di 5.000 euro solo per il pranzo. Invece un agriturismo, un ristorante tipico della zona, che tra l'altro ha delle portate molto caratteristiche, sempre anche gradite dagli ospiti, può far risparmiare parecchio. In un agriturismo sui 20-30 euro a persona, stiamo parlando di una cifra molto più bassa rispetto a un ristorante di lusso. Quando conviene, Sandra, utilizzare un catering e magari far cucinare all'esterno e poi farsi portare appunto i pasti pronti in casa? Quando si ha la location. Si ha una casa con un bel giardino, allora può valerne la pena. Se bisogna andare anche ad affittare una villa con giardino, allora i costi più o meno potrebbero equivalersi e potrebbe non valerne la pena. Ma ci sono, non lo so, molte coppie che scelgono anche questa modalità per organizzare il pranzo di nozze? Credo siano tantissime, perché mancano proprio le location a disposizione. All'estero è molto più facile organizzare queste cose anche in un parco cittadino. Da noi invece bisogna andare in una villa privata che ha un parco che mette a disposizione. Di solito le ville che hanno il parco hanno anche la cucina, quindi non è sempre semplice individuare riuscire a fare questo tipo di scelta. Quindi certo, insomma, bisogna ponderare un po' tutto. Sì, si può fare, certo, però ecco, prima cosa partire intanto con l'individuazione di un posto che abbia una dimensione decente. Andrea Polo, voleva aggiungere qualcos'altro? No, dice, io sono uno di quelli che l'ha fatto col catering. Ah, eccolo là, sì. Sì, in effetti è quello che diceva giustamente lei, cioè, abbiamo scelto una villa che aveva già di per sé un catering di fiducia con cui lavorava, a noi andava bene, è stato fatto così. Comunque sul tema del prestito per sposarsi non ti dico quante persone ci stanno scrivendo, tutte un po' piccate anche per questo ragionamento. Sposarsi, ci racconta Alessandra da Pisa, costa una cinquantina di euro, vabbè, senza fedi, senza niente. Rinunciare a non contrarre matrimonio solo perché non si può fare la festa è da folli. E così la pensa anche Ronnel da Monza. Ronnel, buongiorno. Buongiorno, esatto, io volevo rivolgermi al suo ospite, signor Polo. Sì, perché la colpa è sua, naturalmente. In maniera molto educata, ritengo. Vabbè, ma lui ha fatto un'indagine, Ron, il poverino, non è che abbia fatto niente. Certo, infatti immaginavo, però la mia sommessa opinione è che ci si indebita per ben altre cose, quale può essere la casa, gli studi, eventuali malattie che succedono. Indebitarsi o far indebitare i genitori, ancora peggio, per fare una cerimonia sfarzosa, ecco, personalmente non ritengo una cosa corretta. Certo, ecco. Ronnel, Rudy da Udine dice, ciao, sposarsi al giorno d'oggi e già firmare una cambiale in bianco, figurarsi fare un botto di debiti per una cerimonia. Davide Guarneri, l'abbiamo ripescata, ci sente adesso? Guarneri, non ce la possiamo fare stamattina. Allora, facciamo una cosa, magari la riorganizziamo la puntata per cresime e comunioni, anche perché tanto vedo che il matrimonio è il tema in assoluto più gettonato. Quello che costa di più. Questa mattina, ed è anche quello che costa di più. Se dovessi fare un prestito per il matrimonio, chiederei il doppio della cifra necessaria, così sono coperto anche per le spese di divorzio, ci scrive Luciano da Roma. Lo sapevo che stamattina avremmo fatto emergere tutto il peggio che c'è in noi su questo argomento. Sandra Mariani, anche chi sceglie di sposarsi cercando degli sponsor per finanziare appunto tutta l'operazione. Ma quante coppie italiane lo fanno? Ma almeno ne sono più di 60 monitorate da Nozze Furbe. Noi abbiamo creato una mappa per localizzarle. Non sono tutte le coppie, alcune si sono già sposate, altre invece devono ancora farlo, e non sono tantissime, se vogliamo. No, perché non nazionale. È che sia poi un'operazione così semplice, perché va seguita, no, con cura, ecco, forse ancora più di una cerimonia tradizionale a piena assolutamente spesa. Bisogna proprio impegnarsi, perché deve diventare un lavoro vero e proprio, perché in realtà si basa tutto su uno scambio di visibilità. Gli sposi chiedono ai fornitori uno sconto o un servizio gratuito lì dove si può, in cambio di pubblicità. Ora, la pubblicità deve essere fatta veramente, non solamente per ottenere lo sconto. Di solito lo fanno aprendo un blog e cercando però di dare visibilità anche al blog, perché poi avere un blog seguito da due persone, cioè dagli sposi, non è pubblicità per un fornitore che sta rinunciando a parte del proprio guadagno. E quindi gli sposi devono ingegnarsi per avere visibilità, per devono mandare dei comunicati alle varie, ai giornali locali, alle radio, alle televisioni, perché più si parla di loro, più il proprio blog è visitato, più il fornitore ha convenienza a fare, a finanziare, diciamo, certo. Ecco, qual è l'aspetto maggiormente, come dire, finanziato? L'abbigliamento piuttosto che appunto l'organizzazione del pranzo? Che cosa? Il viaggio di nozze? Un po' tutto, devo dire. Il ricevimento, il pranzo viene finanziato ovviamente con degli sconti. L'abito da sposa, alcune l'hanno addirittura vinto nei concorsi, perché poi ci sono sempre degli atelier che mettono in palio degli abiti per delle promozioni particolari. Saperne approfittare aiuta a risparmiare anche lì a volte più di 1.000 euro. Sandra, ti faccio sentire, scusami se ti interrompo, Maurizio da Milano, perché abbiamo trovato un ascoltatore che si è sposato usando appunto questa strategia. Maurizio, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao Sandra, la conosciamo benissimo. Ah, molto bene. Ecco qua, abbiamo fatto un'altra carramba stamattina. Okay. Ci dica, Maurizio, allora, come si è organizzato utilizzando appunto la filosofia dello sponsor, il matrimonio sponsorizzato? Allora, io e mia moglie Chiara ci siamo sposati a settembre dell'anno scorso, ma abbiamo iniziato la nostra avventura un anno e mezzo prima, perché è fondamentale sapere che se ci si vuole sposare con lo sponsor, bisogna partire con un largo anticipo, perché la pubblicità viene fatta soprattutto attraverso internet, i social network e un blog sempre ben aggiornato, quindi c'è bisogno del tempo per fare tutte queste cose. Quanto ha abbattuto i costi, Maurizio? Quanto aveva messo in preventivo e quanto invece è riuscito a risparmiare? Allora, noi abbiamo risparmiato circa l'80% del budget che sarebbe venuto. Ha dovuto a costare, fare qualche rinuncia? Allora, in realtà all'inizio sì, avevamo dovuto fare qualche rinuncia, ma poi abbiamo trovato più cose di quelle che stavamo cercando, in effetti. Quindi alla fine, insomma, è stata una sorpresa anche piacevole, no? Come dire, l'operazione ha preso una strada anche inaspettata. Sì, sì, sì, assolutamente sì. Una cosa importante che vorrei dire a tutti quelli che vogliono fare, che vogliono intraprendere l'avventura del matrimonio con lo sponsor, è di trovare un'idea originale che possa distinguere dalle altre coppie con lo sponsor e fare un po' notizia, perché se no è molto difficile, ora che la cosa non è più una novità già da 2 anni, trovare spazio giusto sui media, che è una cosa importante per gli sponsor. Benissimo, Maurizio, grazie anche a lei per i suoi suggerimenti molto pratici. Andrea, questa ti piace, questa idea del matrimonio con lo sponsor? Adesso su Prestiti Punti ti devi fare anche un monitoraggio per capire se si sposano con lo sponsor. Ni, in realtà, devo essere sincero, ni, perché comunque sia è ovvio che ti costringe a delle scelte in qualche maniera snaturare quello che è l'idea che tu e tua moglie avete scelto. Poi ovvio, ciascuno fa con quello che può e come può, per cui è chiaro che il matrimonio ha sempre suscitato grandi diatribe. A me non piace l'abito della sposa, ma io avrei fatto il primo di pesce anziché, certo, per cui infatti. Si scatenano gli istinti peggiori, per non parlare poi dell'istinto che si è scatenato nell'Agenzia delle Entrate della Sicilia, che vi racconterò tra poco che cosa ha fatto nel 2011. Ha voluto andare ad indagare su tutte le cerimonie che nel comprensorio siciliano si erano svolte dal 2006 in avanti, appunto, e ha chiesto a tutte le coppie che si erano sposate appunto in quel periodo di formulare un questionario con tutti i dettagli, tutti i fornitori di tutti i servizi della cerimonia. Allora, ve lo anticipavo prima, nel 2011 che cosa è successo in Sicilia? Che tutte quelle coppie che si erano sposate dal 2006 in avanti hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle Entrate un modulo dove indicare tutte le spese sostenute per il matrimonio, dal ricevimento al bouquet, da inviare, pena sanzioni da migliaia di euro. Noi abbiamo recuperato su internet, perché non hanno potuto essere con noi questa mattina, un contributo, un'intervista di altri colleghi a Fabio Zagarella, appunto capo dell'Agenzia delle Entrate della Sicilia, che aveva spiegato così quell'iniziativa. Stiamo chiedendo la collaborazione degli sposini per ricostruire quelle che sono state le spese effettuate in occasione del matrimonio, così da poter creare una banca dati nella quale confluiranno tutte le spese effettuate dalle coppie che ci risponderanno, e andare poi successivamente a riscontrare che gli esercenti che hanno fornito questi servizi agli sposi abbiano correttamente dichiarato quanto percepito nella loro dichiarazione fiscale. È un settore nel quale spesso si fa ricorso alla fatturazione, cioè alle prestazioni di servizi senza la fatturazione, In molti casi abbiamo riscontrato anche un po' di reticenza da parte di chi ha usufruito di questi servizi a collaborare, ma onestamente però il primo acchito è stato un po' di difficoltà, poi adesso stanno cominciando ad esserci collaborazioni ampie e complete. Uno spesometro sul matrimonio, nella sostanza. Secondo voi noi sappiamo i risultati di come è finita questa operazione? No, perché ci hanno detto i risultati sono protetti, non si sa se ci sono delle coppie che sono state sanzionate perché non hanno compilato correttamente il modulo, per non parlare degli ascoltatori che ci hanno scritto molto scandalizzati su questa operazione, perché in realtà avrebbero voluto saperla prima, ovviamente, e quindi avrebbero fatto tutto correttamente, ricevute da parte del fioraio e quant'altro. Detto questa è una cosa un po' folcloristica che valeva la appena appunto raccontare. Andrei a sentire Mariella dalla provincia di Salerno, poi concludiamo con i nostri ospiti di stamattina, con Sandra Mariani ed Andrea Polo. Mariella, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Allora, premetto che insomma, sia io che mio marito non amiamo gli spazi, quindi forse questo ci ha aiutato in questo Ma sa com'è, Mariella, che tutti diciamo a nessuno piace lo sfarzo, poi non si sa perché quando organizziamo il nostro matrimonio, non il mio però, insomma, esce fuori tutte le esigenze più strane, insomma, le tiriamo fuori. Beh, nel suo caso non è successo. Ci dica. No, abbiamo fatto un aggiornamento oggettivo, avevamo un budget limitato di 10.000 euro. Abbiamo diviso questa somma equamente tra le spese del matrimonio e poi arredare la casa, insomma. Quindi noi ci siamo sposati spendendo 5.000 euro, ma comprensivo di tutto, cioè nel senso abbiamo fatto intanto la cena con il pranzo, quindi abbiamo ovviato a 8.000 portate di aperitivo, antipasto, barra, pranzo. Certo, quindi intanto un numero di portate appunto contenuto. Il vestito da chi se l'è fatto cucire, Mariella? Scusi? Mi pare che si sia fatta cucire il suo vestito da sposa da una persona particolare. Abbiamo comprato con mia mamma, abbiamo comprato la seta, io ho disegnato il vestito e lei me l'ha realizzato. Perfetto. Quindi abbiamo abbattuto i prezzi, cioè il mio vestito è dovuto passare 200 euro. Il vestito tutto in seta, cioè fatto bene, veramente. Comunque, insomma, mi erano chiesto 5.000 euro per il vestito. E lei dice, insomma, magari mi ci compro il frigorifero, la lavatrice e tanto altro. Mariella, la ringrazio per la sua testimonianza. Sandra Mariani, vorrei ritornare a nozze furbe e insomma risparmiare sicuramente si possono fare delle scelte di buon senso, se uno se lo può permettere può anche straspendere e organizzare le nozze da Cenerentola o Biancaneve. Quali sono le nozze più stravaganti che hai dovuto seguire o che ti hanno raccontato sul tuo blog? Ma sono un po' stravaganti quelle a tema. Ad esempio, ultimamente abbiamo pubblicato un matrimonio, tra l'altro low cost, con molti accorgimenti per risparmiare, però in stile elfico, Signore degli Anelli. Quindi lo sposo aveva un abito molto particolare, anche la sposa, un abito fatto proprio da una costumista che veste... E ci mancherebbe altro, che potevamo farci mancare la costumista, no? No, però in realtà non è che ha speso molto, anzi, forse ha speso meno degli abiti da sposo di marca che si trovano in atelier. Ah beh, sì, magari. Quindi paradossalmente ha pure risparmiato, sì. No, sì. Che cosa hanno mangiato quel giorno? Il cibo degli elfi? Sono andati in un ristorante tipico e hanno mangiato un pranzo normale, non hanno esagerato con le portate. In realtà, quello che diceva anche la signora Mariella, per sposarsi risparmiando basta avere tutta una serie di accorgimenti, a partire dalla data, anche la data del matrimonio. Sposarsi in alta stagione fa lievitare i costi, quindi sposarsi in autunno o in inverno può aiutare a risparmiare anche il 20-25%. Quindi dall'anno prossimo questa trasmissione non la facciamo più a maggio, ma la facciamo ad ottobre, ve lo dico già, perché almeno vi obblighiamo tutti quanti a risparmiare e a scegliere un altro mese. Sandra, ci sarebbero tante altre cose divertenti da raccontare. Devo dire che anche il tema dello sponsor per il matrimonio ha un riscontro un po' contraddittorio tra gli ascoltatori che ci stanno scrivendo. C'è chi appunto definisce come lo squallore più profondo, chi invece è molto divertito. Detto questo, come per tutte le cose, prendere per tempo la cerimonia, Andrea, concludiamo anche noi con una considerazione di buon senso, può sicuramente aiutare a spendere meno, perché partire all'ultimo minuto è chiaro che poi fa triplicare tutte le quotazioni di tutte le cose. Sì. Che dici? No? Sì, può farlo. Eh? La mia esperienza è stata diversa, però sì. Hai fatto tutto all'ultimo minuto? Sì, decisamente. Noi ci siamo dalla decisione al matrimonio sono passati meno di 3 mesi, per cui... Ma ricordiamo sempre che tu ti sei sposato prima dell'euro. Prima dell'euro. Esatto. Allora, no, però scherzi a parte, adattandosi a determinate cose, senza dubbio si può risparmiare. A me quello che ha sconvolto quando ci siamo sposati è scoprire che esistono, per me esistevano i confetti, esistono confetti da poco e da confetti che costano quanto dei diamanti. Allora, c'è un mio amico cui... che mi ha raccontato poco fa di averne mangiate anche al sapore di cioccolato e pere, per cui anche lì stiamo avendo una sofisticazione assoluta estrema. Però insomma si può risparmiare anche sul confetto volendo. Certo. E insomma, allora noi stamattina abbiamo voluto fare una puntata un po' divertente, sensibilizzando un po' tutti su questo tema. Adesso non perché vogliamo far crollare improvvisamente il business di prestiti.it, però magari, ecco, indebitarsi per sposarsi, pensiamoci su un attimo, magari, ecco, una cifra che sia contenuta. Vedete voi. Grazie ad Andrea Polo, a Sandra Mariani per essere stati con noi. Salva Danaio torna domani. Buona giornata. Salva Danaio.